in 3D, magari potendo ruotare l'oggetto guardando esattamente da tutte le parti dove vanno tutti. Ecco, e tra l'altro qui stiamo entrando in un campo di applicazioni dove non serve più la stanza con quattro pareti e sistemi di proiezione molto, molto complessi, se non sbaglio, no? Questo è un punto molto importante, perché la stessa applicazione funziona nella cave, ma funziona sul televisore 3D, funziona sull'iPad e con un po' di lavoro funziona anche sul telefono mobile, diciamo. Ecco, questo lo diciamo perché probabilmente si può immaginare una forte diffusione di queste tecnologie di realtà virtuale con tecnologie che, diciamo, danno un effetto immersivo inferiore, ma all'atto pratico hanno la stessa utilità, se per esempio parliamo di progettazione o di formazione. Ecco, formazione forse addirittura un domani a livello scolastico, perché no? Diciamo, esistono sicuramente due tipi di formazione. Quella a livello industriale è assai utilizzata anche oggi, anche questa richiede spesso budget un po' grossi, perché se io voglio simulare un evento catastrofico in un impianto petrolchimico, per esempio, e voglio istruire i miei operatori ad operare. Procedure di emergenza, per esempio. Simulazione di procedure di emergenza. Che andiamo dal disinnescare la bomba per quelli che fanno questo mestiere a cose più insomma urbane, come si suol dire. Però l'incidente in fabbrica, il versamento di sostanze chimiche. Esatto. E qui si ha la possibilità di farlo in modo strutturato e in tutta sicurezza. Ma oltre a questo esiste anche, è poco diffusa in Italia, ma esistono in molti paesi l'istruzione per scolastica. È molto più semplice capire come è fatta una forma geometrica tridimensionale particolare rispetto a vederla su un libro. Rappresentata bidimensionalmente. Esatto, assolutamente sì. Oppure capire il funzionamento di qualche organo interno del corpo. Penso alla chimica, le formule di struttura che sono tridimensionali, noi continuiamo a vederle, no? Sui fogli dei libri come se fossero invece tutte piatte, ma assolutamente non lo sono. Va bene, grazie Poretta allora, buon grazie lavoro. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.